della mostra sull'Africa che c'è al Museo Civico Medievale, se non fosse che non l'ho ancora vista, per cui adesso tenterò di farmi dare un ingresso per poterla andare a vedere e poi magari ne parliamo, perché è una mostra, mi sembra una mostra molto importante, che è su fino al 9 di settembre se non sbaglio, per cui penso che ne valga la pena sia di vederla che di... poi a me l'arte africana è sempre piaciuta molto, sia di vederla che di parlarne, insomma. E così, e dunque ascoltiamoci un pezzo di un... mi sono arrivati un sacco di musica nuova in questi giorni, evidentemente anche gli uffici stampa hanno un po' di tempo libero in più del solito, e per cui tipo la Broom Rush Promotions mi ha spedito questo pezzo che presumo sia un gran pezzo reggae come al solito, visto che loro sono specializzati dalla Germania a fare questo reggae che ci ascoltiamo. Sit alone, then I light up. From the valleys to the hills by the sea, you see a small tree. Era UC con I Don't Care. Cosa mi dice di UC I Don't Care? Niente, mi dice che me l'aveva già spedito la settimana scorsa, ma che noi non ce l'eravamo calcolato. Fammi un po' vedere se... ah, eccolo qua, un German reggae dall'album Bridges, che è uscito il 5 luglio, per cui non da molto, e viene dalla Germania. E niente, questo musicista explicit lyrics no, ovvero non ci sono parolacce esplicite in questo pezzo, e dunque possiamo farlo ascoltare ai bambini. Non che i bambini ascoltino Coxo Spaziale, almeno i miei bambini sicuramente no. Tutte le volte che gli chiedo se vogliono venire in radio a fare una puntata di Coxo Spaziale mi dicono manco morto. No, dicevamo, e mi stavo distraendo perché nel frattempo sono in un incrocio stradale e ci vuole un minimo di concentrazione. Uno non è che può fare un programma radio, guidare in ciabatte e poi pensare anche a leggere gli email di UC Production, no, di Boom Rush Production, in contemporanea, invece sì. No, dicevo, invece una mostra che è ancora su e sta su fino alla fine, fino al 29 settembre, se non mi sbaglio, è quella che abbiamo al Mambo di Julien Charrière, che abbiamo sentito qualche settimana fa, e dunque in questa puntata di emergenza, perché non riascoltare la voce sia di Lorenzo che di Julien, che ci raccontano un po' della mostra. La mostra merita decisamente di essere vista, anzi l'ho rivista anche la settimana scorsa, e devo dire che è una mostra che continua a piacere, sia a livello estetico, cioè proprio formale, sia a livello di contenuti. E anzi, fra l'altro, ho anche scoperto che lì l'arcipelago di Bikini, che è il posto in cui su cui di fatto è basata quasi tutta la mostra, dove gli Stati Uniti appunto negli anni 50 hanno fatto questi esperimenti nucleari, è stato designato come patrimonio dell'UNESCO, patrimonio dell'umanità per gli esperimenti nucleari. La cosa paradossale è che di fatto nell'isola di Bikini non ci si può andare, cioè uno deve veramente essere molto convinto, come è stato molto convinto Charrière nel farlo, per proprio voler andare in questa zona, perché non solo è ancora radioattiva, ma sembra che ci siano addirittura qualche elemento un po' particolare, non so se cesio, no, non polonio, cesio o qualcosa del genere. Dicevo, non conviene molto a nessuno andare all'isola di Bikini, malgrado appunto sia patrimonio UNESCO dell'umanità. Dicevo, riascoltiamo appunto le parole del curatore della mostra, Lorenzo Balbi, e anche eventualmente subito dopo quelle dell'artista che ci racconta, non mi ricordo più che cosa, e forse sì, dopo l'ho anche tradotto malamente, ma sicuramente qualcosa si capisce. Arte contemporanea. Eccoci qua, ne approfitto immediatamente, è arrivato Lorenzo Balbi, curatore della mostra, nonché direttore del Mambo. E che cosa mi racconti di questa mostra? È molto potente. Eh? Ciao Stefano, ciao. Buongiorno a tutti. È una mostra, l'abbiamo definita un po' sensoriale, una mostra veramente immersiva, si dice spesso, no? Questa installazione è sensazione immersiva. In questo caso è molto immersiva, caso, perché siamo veramente sott'acqua. In questo caso è immersiva in tutti i sensi, perché nel percorso di mostra, che è ovviamente anche lasciato molto all'idea del visitatore, l'artista ci induce in primis a immergersi nel suo mondo, immergersi nella sua ricerca e anche nell'elaborazione delle sue immagini, per poi fluttuare in questo spazio indefinito che sta probabilmente sott'acqua, ci viene suggerito essere in un ambiente sospeso, che è lasciato anche alle nostre sensazioni, alle nostre emozioni del momento, per poi riemergere fuori dall'acqua, guardando il sole da un'alta prospettiva, in una prospettiva che non ci permette di guardarci, una sorta di rovesciamento dello specchio di Narciso, come definisce Julien, e che ci mette di fronte però alla nostra presenza, al nostro proprio io, così come faceva veramente nel mito di Narciso. E questa è una rinascita dalle acque, perché alla fine tutti veniamo dall'acqua, l'acqua della pancia della nostra madre, una liberazione dall'acqua, una riemersione, che è anche una rinascita in un nuovo mondo, che è quello descritto dall'artista. Questa campana di metallo, raccontami questa storia della campana, che questa non l'ho capita, perché poi ci sono questi sarcofagi di noci di cocco che ho letto un po' la storia, perché ha tutto a che fare con gli esperimenti nucleari, giusto? Adesso sì, ce lo facciamo raccontare anche da lui. C'è un filo conduttore, se vogliamo, anche un po' una suggestione, che è quella, sì, che è data dall'artista nella ricerca di luoghi che sono stati alterati in modo ineludibile, incontrovertibile dall'uomo, e sono luoghi, in questo caso, spesso teatro di sperimentazioni atomiche. Quindi si parla molto dell'atollo di Bikini, tristemente noto non solo per i costumi a due pezzi, ma per essere stata la sede di esperimenti nucleari fatti dalle forze armate americane dal 1948 fino al 56, e l'installazione, e poi si parlerà anche del Kazakistan, Semipalatinsk, questo posto nella steppa kazaka, lontano da tutto e da tutti, dove i russi, un po' più lontano dalle telecamere, fecero le loro sperimentazioni atomiche. Ad oggi a Bikini ci si può tornare, perché le radiazioni sono tollerabili al corpo umano. A Semipalatinsk, se ci vai, come Julian è andato, ti danno un contatore Geiger da metterti addosso, e quando raggiunge il numero di radiazioni tollerabili dal tuo corpo per un giorno, suona e ti dice di andarsene. Questo nel suo caso è avvenuto dopo 33 minuti. Wow. Per dare la dimensione anche dei suoi viaggi, che sono veramente delle spedizioni, come delle spedizioni scientifiche, ma anche dei viaggi di avventura. E dicevamo, lo spazio principale è dominato da questa grande installazione che si rifà all'atollo di Bikini, all'immersione che lui stesso ha svolto sull'atollo di Bikini, e lo spazio centrale è dominato da questa installazione, che è una grande bilancia a cui due lati, quindi un grande bilanciamento di peso. Da un lato c'è una grossa campana di ferro, che è una scultura che rimanda a una suggestione artistica, che rimanda ai primi mezzi di esplorazione subacquea, quindi queste campane che venivano riempite d'aria, cui gli uomini si calavano in acqua, e dall'altro, bilanciando il peso notevole di questa campana di ferro, c'è una sorta di grande grappolo di sacchetti di acqua di mare, di acqua del Pacifico, quindi la natura e il tentativo di dominare la natura dell'uomo, che si bilanciano in un'eterna oscillazione, diciamo. E i sacchetti di acqua di mare, ovviamente, essendo quest'acqua non pura, non purificata, cambieranno colori, intensità, presenza di microorganismi e di vegetali per tutta la durata della mostra. Questa bilancia poggia al di sopra di una distesa, come dicevi tu, di noci di cocco, ma sono noci di cocco strane, perché sono state avvolte come in dei piccoli sarcofagi di piombo, perché queste sono noci di cocco provenienti da Bikini, e quindi hanno ancora un piccolo grado di radioattività, e sono state racchiuse per preservarle, come proprio in un guscio, in un nuovo sarcofago con del piombo. La cosa curiosa è che Julian ha cercato, perché queste sono come delle prove, delle testimonianze, ma sono anche delle prove per un monumento. A Bikini non ci sono monumenti che rifanno la deportazione delle persone che sono dovute andare via per lasciare lo spazio alle sperimentazioni nucleari, non ci sono monumenti riguardo appunto alle sperimentazioni belliche, e lui ha pensato a una sorta di questi monumenti piramidali fatti dalle palle di cannone, che sì, spesso si vedono nei musei militari o sulle spianate davanti ai palazzi reali. E sono queste piramidi di palle di cannone, sono state sostituite da questi cocchi. Il cocco, tra l'altro, è anche un vero simbolo di Bikini, perché nella tradizione della dea madre marshallese, la dea madre metteva al mondo una noce di cocco, perché la noce di cocco era insieme acqua, cibo, fibre naturali per vestirsi e strumento, quindi racchiudeva in se stessa tutta l'essenza della potenzialità della vita, della tramandare la vita su questi paradisi terrestri. E adesso le noci di cocco, e sono anche oggetto di un'altra installazione, sono allungate e sono naturalmente sterili, quindi geneticamente modificate dalle radiazioni, e quindi quello che ha fatto l'uomo è controvertire anche la natura, ma anche la suggestione della creazione stessa su queste isole. Un simbolo terrificante, però non lo so, alla fine guardando velocemente questa mostra, in questa super preview che mi sono preso, non lo so, il messaggio che mi arriva è che alla fine la natura comunque riesce a sopravvivere, e ce la farà. Insomma, ed è un messaggio ottimista, è il messaggio che dà Julian. Il suo non è mai un approccio moralista, non troveremo mai nelle opere di Julian devi differenziare i sacchetti della plastica o guardate gli effetti dell'uomo, no, certo. C'è sempre uno sguardo. Il primo video che apre la mostra, le immagini dei relitti di Bikini sono intervallate da albe e tramonti, perché c'è un nuovo giorno a Bikini, c'è una nuova realtà. È vero, è stata completamente virata ispirata dall'uomo, ma c'è una nuova realtà, addirittura c'è un nuovo paradiso, perché lì era un paradiso terrestre con la combinazione perfetta tra uomo, natura, piccole comunità, adesso c'è un paradiso dei sub, perché la barriera corallina, che è stata completamente polverizzata dalle esplosioni atomiche, adesso è stata sostituita da questa nuova Atlantide subacquea fatta di relitti di navi da guerra che fungevano da bersagli per le sperimentazioni. E questa nuova realtà, questa nuova città è adesso la nuova natura, e lì si stanno depositando i nuovi coralli e lì è ripartita l'alba nuova di Bikini. Fantastico. Beh, direi che la spiegazione che mi hai dato inviterà tutti a venire domani all'inaugurazione della mostra. Assolutamente, domani sera alle 8, come sempre aperta a tutti senza biglietto d'ingresso, ci sarà l'opening, l'inaugurazione della mostra di Julien Charrière, e alle 22 ci si sposterà tutti nel Biograph Film Park per un gran concerto dei musicisti che con Julien lavorano e che mixeranno alcuni suoni della mostra live sul parco. Fantastico, grazie mille. Grazie a voi. Julien, siamo qua con l'artista e in questa mostra veramente forte, ma forse tu capisci l'italiano, un pochino. I was telling Lorenzo, stavo dicendo a Lorenzo che secondo me il risultato finale di questa mostra è la potenza della natura che risponde alla potenza dell'uomo in maniera, in un certo senso, ottimista. I was telling Lorenzo about the what is left for me, just taking a look quickly at this show, is the power of nature that responds in a very powerful way to the power of mankind, that, you know, not tries to destroy it, but, you know, in any case not doing anything kind to it. What's your take on this? Because well, I think that most of my work is about this friction zone between those two power, but also about the fact that we should not separate, that there is like a symbiosis between mankind and nature, and then we should not forget that we're part of it. And exactly. Ti traduco. Dice che la maggior parte del suo lavoro tratta proprio di questa frizione, di questo attrito che c'è tra uomo e natura, ma nello stesso tempo bisogna prendere in considerazione il fatto che anche l'uomo è parte della natura, per cui c'è questa sorta di simbiosi tra i due che non è sempre uno stare da una parte o l'altra. Sorry, I interrupt you. No problem. No, I think that the show is also about this kind of like floating, or this movement, which is, I mean, floating like the name of the book, because once you float, you are actually just surrounded by your surrounding, and your surrounding take you in a journey. And when you actually react to this movement, you just it's a kind of a co-authorship about the journey, which I think is very important for the show, so that the viewer here in the museum is kind of smoothly taken, like there will be an underwater current and just going from one space to another. And mi dice che appunto la sua idea di movimento, fluttuare all'interno della mostra, è questo fluttuare che succede quando appunto siamo nell'acqua, e nel momento in cui fluttuiamo l'acqua ci permette, cioè entriamo in una sorta di scambio che ci permette di, I don't think I translated this very well, I'm sorry. That's fine. che ci permette di essere tutt'uno con l'ambiente che ci circonda. Raccontami di questo libro. What is this book? Noi che galleggiavamo nell'atollo di Bikini. What is the book about? Well, the book is an experiment about another way to kind of like transcribe a journey, or like a journey which was a real journey, but also a journey for the mind, and not in an exhibition space, but in a book. And a book is also a type of space that you can actually transport people through, and I never ride before, but this time, because it was a month on a boat on this on the Bikini Atoll with a friend of mine, which is a writer, we decided to have a diary, and a year later we sit down for a month again. In another another situation, and we kind of re-explain us what were the leftover after 1 year of like this kind of journey that we take together. Perché lui e il suo amico Nadine sono andati un mese all'atollo di Bikini e appunto hanno tenuto un diario di tutto quello che succedeva, e questo libro è il risultato di questo diario. Successivamente un anno dopo si sono rivisti, hanno di nuovo passato un mese insieme per compilare questa sorta di diario che racconta un po' anche quello che poi vedremo in mostra, e in maniera naturalmente diversa. Lui dice: io non sono uno scrittore, per cui per me è un media nuovo. One last question. Un'ultima domanda: la tua decisione di andare in questi posti pericolosi per capire cosa succedeva, pur sapendo che sono pericolosi, piuttosto coraggiosa, non avevi paura di contrarre qualcosa, di dover soffrire delle conseguenze delle radiazioni nucleari? Catching something or you know, getting the consequences of the nuclear radiation? Well, I think that as an artist, to understand a place, you also need to expose yourself. Penso che come artista, per capire un posto, hai bisogno di esporti. In questo caso esporti alle radiazioni, ma non è questo l'importante. Ma come puoi sentire da questo ticchettio, siamo tutti sempre esposti alle radiazioni del decadimento dell'energia atomica. Per quel che mi riguarda, non ha a che fare con il pericolo, ma sono posti che mi attraggono per il loro complesso sistema archetipico, e probabilmente ci sono più cose da imparare in questi posti che non in altri. Out of them than others, so that's why I'm. Thank you very much. You're very welcome. Okay. Arte contemporanea. Stranded at the drive-in, branded a fool. What will they say Monday at school? Sandy, can't you see I'm in misery? Maybe bright star. Now we're apart. There's nothing left for me. Love has flown all alone. I sit and wonder why you left me. Oh, say. Real bad, you know it's true. But baby, you gotta believe me when I say I'm helpless without you. Love has grown all alone. I sit, I wonder why you left me. Oh, say. Invece la settimana scorsa, anzi qualche settimana fa, qualche tempo fa, abbiamo avuto live in studio i Leda e dunque riascoltiamo un po' quello che ci hanno suonato dal vivo qui negli studi di Radio Città Fujiko. Che vorrei rubare il suo calore solo per disinfezione. Solo per te. coxo spaziale. Decisamente fantastici. E i due minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. Questo film è dedicato a tutti i giovani perché sappiano a quali pericoli possono andare incontro: il crimine, la droga, la violenza. la droga, le scene che vedranno possano servire da esempio. Erano circa le 8:30 del mattino. Altri due, Ralph. Altri due. Altri due, Ralph. Altri due? Sì. Bene. Altri due, Ralph. Altri due. Altri due, Ralph. E riesco a farmi pagare. Sei il migliore, mi piace. Ecco i tuoi soldi. Yamas. Yamas. Altri due, Ralph. Altri due. Altri due, Ralph. Così, chiudendo, schiacciando, chiudendo. Ok, pezzo di carta che ci puliamo sempre le mani. Gerda. E lo andiamo a inserire sopra. Quante volte facciamo questo E fargli venire dei pesci dentro. Secco, serbevole, bianco secco, profumo bel floreale, fresco. In bocca un bianco molto serbevole, beverino. In città, lei si sente sicura di girare poi per la città magari da sola la sera? No, da sola no. Se fossi Gerda e dovessi nascondermi, dove potrei andare? Andrò dove voglio, non creda che non sarei capace di spaventarmi. Ah, sì, certamente. Vada a prendersela in amore. Lontano. Molta Gerda. Cioè, non so come dirle, nelle piazze. La ragazza stuprata anche qui a Milano, ti senti tranquilla poi circolare per la città? Però oggettivamente, se no, assolutamente no, sempre peggio la situazione. Mentre non faremo un fritto perché non toccherà, quindi non friggerà. Ma guarda, questa sì che è una Gerda. Oh, mi scusi, signor West, avevo bisogno di un terriccio dovunque. Dopo quell'esplosione avevo polvere proprio così. Voglio che lei sappia che le sono... Gerda! Molto. Gerda. Questo film è dedicato a tutti i giovani perché sappiano a quali pericoli possono andare incontro. Il crimine, la droga, la violenza. La droga. Le scene che vedranno possano servire da esempio. Mi si adriva, sono la sonna, deve che ne esce. Gorda. Snello Ival. Gorda. Enimirkli. Gorda. Snello Ival. Gorda. Enimirkli. Gorda. Snello Ival, Gordon, Enimirkli, Gordon, Snello Ival, Gordon, Enimirkli. Già finito? Way, way, way, way, way.

E qui, col rumore del mare, si conclude questa puntata speciale di Coxo Spaziale. Io ero Stefano W. Pasquini, questa era Radio Città Fujiko 103.1 FM, continuate ad ascoltarci, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao! You put your great idea